Salta, un programma di e con Enzino e Marzi. Alla parte tecnica Simone. Hone. Giovedì 19 marzo, dopo cambiamo il megafono, è promesso. E cambiamo anche chi sta dietro al megafono. Piazzalta. Benvenuti. Benvenuti e un augurio a tutti i babbi, a tutti i papà oggi. Un saluto caloroso. E a Giuseppe, così ci siamo tolti il pensiero. E anche chi fa le frittelle. Buone. Perché questa qualcuno in cucina ci deve anche stare. Bravo, così mi piace. Piazzalta, ho detto tutto. Possiamo partire subito col primo brano, poi dopo spieghiamo chi siamo, chi non siamo. E che cosa, di cosa parliamo e stasera, che è una serata molto interessante. Io ringrazio Simone perché la mia conoscenza musicale va da Tozzi ai Pink Floyd, quindi sei con nel tuo centro, nel mezzo, con niente nel mezzo, sì. Però e quindi sono nel mio centro, Abby Seagard dei Pink Floyd del 75 dall'album Wish You Were Here. Yeah. Lo dovresti ringraziare se... Wish You Were Here. Ecco, per esempio, i titoli di Tozzi sicuramente sono più accessibili per te. Pensa che questa è l'unica canzone non cantata da un membro dei Pink Floyd. E da chi è cantata? È cantata dal britannico, che è un cantatore britannico, Roy Harper. Incredibile, veramente. Registrazione ufficiale, ma questa, originale. Ma questa è cultura musicale, eh. Questa è cultura... Io direi di andare avanti a questo punto. Allora, facciamo un caro saluto a Paolo, che non può essere in studio con noi a fare le riprese. E come ci ascolta però Marzi, Paolo? In uno dei tanti modi in cui tutti i nostri radioascoltatori ci possono ascoltare. Tipo? Per esempio, Paolo ha scaricato la sua app, l'app di... E quando dici sua, è proprio sua. Sua. Di Piazza Alta sul suo smartphone. Oh yeah. E praticamente in diretta ci ascolta. Oppure? Oppure sulla modulazione di frequenza 101.2. Oppure? Oppure... Streaming, in streaming www.radiof.it. Questa ti rimane va e più poi di... se ci volesse anche guardare proprio come siamo belli, come mamma ci ha fatto nei prossimi giorni sul nostro canale YouTube, c'è la possibilità di rivedersi. Quindi Piazza Alta è una trasmissione radiofonica, è un canale YouTube, è una pagina Facebook, è un po' di tutto. Ma dopo esserci lodati e imbrodati di tutta questa cosa, ma parliamo finalmente dell'argomento. Sì, io direi anche di fare un piccolo subito un saluto. Subito così? Sì, sì, alla persona che ci è venuta a trovare stasera, che è Lamberto Moretti. Buonasera a tutti. Ciao Lamberto. Che ho scoperto ora essere comunque non un novizio dell'etere, perché nei non lontanissimi anni Ottanta ha solcato le frequenze. Qui? No, qui, dall'altra parte. No, no. Ah, in Radio F nella vecchia sede, certo. Nella vecchia sede. Ma perché Lamberto è qui? Che cosa ci rappresenta? Perché Lamberto, a parte, fammelo, diciamo, essere un giocatore di pallavolo. Provetto. Poco provetto. Uno speaker. Un ex speaker radiofonico. È anche il presidente. Personaggione. È il presidente di una delle associazioni più nobili e senza dubbio più utili del panorama foianese. Correggetemi se sbaglio, perché è il presidente della pubblica assistenza Avis Foiano. Attenzione, attenzione! La pubblica assistenza Avis a Foiano, un'icona da sempre, dalla parte di chi soffre, di chi ha bisogno, di chi è solidale, nata sulle spalle di un manipolo di volontari, protagonista dell'associazionismo foianese. Veglia, tutela, soccorre, forma, organizza, indirizza, protagonista da oltre 20 anni della vita sociosanitaria del paese. Un segno che a Foiano i lampeggianti girano. Questa sera a Piazza Alta. You've been. E come direbbe il mio caro amico Marcy, questi erano i Foxy Gen con How Can You Really, dall'album Instant Power. Instant Power. Ma io non questa la direi proprio così. È una band indie rock californiana, ciccio. Indie rock che vuol dire? Che è un po' indie. È un po' rock. Ma Marcy, abbiamo già anticipato chi è l'ospite di questa sera. Ricordiamo, mi sembrava doveroso, che state ascoltando Piazza Alta, uno dei più bei programmi che il giovedì sera vadano in onda dalle 22 alle 23 su Radio F, forse il più bello. Ma penso che anche a livello nazionale non possa annoverarsi. Non ci limitiamo. Sì, ma anche a livello in Australia, per esempio, non c'è una allora, cosa in così. Streaming e con l'app ci possono ascoltare in ogni in dove, dove del nostro globo terracqueo, quindi non ci poniamo limiti. Ma come è duopo, noi facciamo, siccome siamo una radio d'avanguardia, ma anche guardiamo al passato, al presente, quindi anche di retroguardia, oltre che avanguardia. Ti piacerebbe, ma vuoi salutare qualcun altro prima di iniziare con gli ospiti? Sì, io volevo salutare una presenza che stasera veramente allieta la nostra trasmissione, che è Alice. Ciao Alice. Questo è un tra l'altro Alice nel programma delle meraviglie. Probabilmente, guarda, non so se ne potrete vedere l'immagine, ma sicuramente la voce ogni giorno su Radio F, certo, il pomeriggio. Dalle 17 potete... alle 19 il programma di informazione di Radio F viene tenuto e condotto da Alice e la sua splendida voce. E vi dico, se la voce è bella, anche l'immagine è un bel vedere. Ora stai calmo, però, senza ora dubbio, basta. Però ora basta. Presentaci l'ospite di questa sera, anche perché tu ne sei un po'... Allora, Lamberto Moretti, al secolo Lamberto. Lamberto. Al secolo. Nato ciao a Lamberto. Non ho ancora un secolo, no, non so se al mezzo secolo. Sopra al mezzo secolo, diciamo. Allora, Lamberto è un personaggio chiaramente molto conosciuto a Foiano ed è importante perché da una ventina d'anni più o meno è il presidente di 19 ora. Circa 19 di quella che, come giustamente ha detto Enzo, a Foiano e dintorni è il presidente di questa associazione, della pubblica assistenza Avis, che ha un ruolo, diciamo, fondamentale, che raccoglie molti volontari, ora ce ne parlerà meglio Lamberto, ma che svolge un servizio silenzioso di tutela e di salvaguardia, di protezione per tutta la cittadinanza. Ho detto un po' bene? Fatto silenzioso dipende, qualche volta andiamo in sirena, ma insomma, diciamo di solito non ci vedono, ci sentono. Ecco, quando si sente la sirena è perché c'è la necessità. Esatto. Io faccio solo un piccolo cappello, perché poi sono quello che ne sa meno stasera dell'argomento, quindi ascolterò molto volentieri. Marci ci teneva a non far sapere, ed è per questo che ve lo dico subito, che anche lui fa parte di questa associazione fin dagli albori. È stato uno dei fondatori, diciamo. Facciamo solo un piccolo break per la nascita dell'associazione. Chi è nata, Lamberto, quando? Ecco, raccontatecelo insieme. Allora, la pubblica assistenza, diciamo strutturata come ora, è nata nel 1994, gennaio 1994, quindi abbiamo da poco superato i 20 anni. Ma il servizio di ambulanza era stato, appunto, Marcello ne è molto informato, perché è nato negli anni 80 con l'Avis. E anche per questo noi che abbiamo continuato questo servizio ci chiamiamo Pubblica Assistenza Avis, proprio per questo motivo. Abbiamo tenuto il nome Avis dentro il nostro logo, diciamo, proprio perché nasciamo da lì. Quindi siamo una pubblica assistenza, nel senso che facciamo servizi di trasporto sanitario, ma ci ispiriamo ancora anche a quei principi che sono quelli dell'Avis, donatori di sangue, che qui a Foiano è una delle associazioni insomma, e più in generale diciamo del volontariato e della solidarietà. Assolutamente. Beh, a un certo punto, ecco, appunto, c'era questo servizio che era un po' come dire, non strutturato all'inizio dall'Avis Sangue, più di 20 anni fa. È stata sentita la necessità di darsi una struttura più organizzata e è stata fondata la pubblica assistenza Avis. Esatto. All'inizio i servizi che venivano fatti erano essenzialmente di trasporto sanitario. Sì, ordinario, diciamo. Anche ora, esatto. Poi è nato il 118. Quello è stato uno dei motivi per la nascita proprio della pubblica assistenza, perché è nata la centrale di 118, non solo in provincia di Arezzo ma in tutta Italia, quindi il numero da chiamare in caso di emergenza sanitaria. Scusami, in che anno è nato questo? In provincia di Arezzo nel 1994. Ecco perché ora si dà per scontato di fare, esatto, il 118. Ma non è così tanto. No. Prima, anzi, si chiamava l'ospedale direttamente. Si chiamavano dei numeri anche dell'associazione. E diciamo il servizio non era così organizzato, quindi si rischiava da una parte di non trovare nessuno, di avere due ambulanze nello stesso posto perché qualcun altro, esatto, per un incidente chiamava. Quindi il 118, la funzione principale è quella di raccogliere le chiamate, ma soprattutto quella di fare il coordinamento delle ambulanze. Quindi gli operatori del 118 sanno benissimo l'ambulanza della zona che è fuori, quindi non richiameranno, certo, ovviamente la stessa perché è già impegnata, manderanno un'altra ambulanza, sanno, ecco, fanno da filtro per tutte queste esigenze del territorio. E questa è questo la cosa fatto che hai detto te, Enzo, sul fatto che si dà oggi per scontato un servizio che 20 anni fa non lo era per niente, te lo testimonio perché quando diciamo l'organizzazione sanitaria, la USL dell'epoca, cominciò a ragionare di questo servizio che cominciava a essere necessario, fece appello a tutte le associazioni del volontariato che, diciamo, più o meno organizzate all'epoca, si resero disponibili, con ovviamente carenza di mezzi, carenza di, sia di personale che, si dettero una struttura e cominciarono a lavorare essenzialmente per questo servizio di primo intervento, di prima necessità, che oggi, diciamo, copre, Lamberto, sostienimi su questa cosa, tutto il territorio nazionale. Assolutamente. Ecco, il 118 nostro, diciamo, per quello che riguarda la pubblica assistenza, che zone copre? Allora, noi ovviamente abbiamo come territorio principale Foiano e comunque un po' tutta la Val di Chiana, cioè nel senso che tutte le ambulanze, qui in Val di Chiana ci sono 3 ambulanze di emergenza, che sono una qui a Foiano, quindi la gestiamo noi, sì, come pubblica assistenza, una a Cortona e una a Castiglio Fiorentino, gestite dalle Misericordie. Okay. E poi c'è anche Monte San Savino, però fa parte già della zona di Arezzo, diciamo, sì, non della Val di Chiana come coordinamento. E quindi queste ambulanze sono coordinate appunto da 118, quindi in caso di bisogno a noi capita di uscire fuori dal nostro territorio, come alle altre di venire, certo, al territorio di Foiano, quando c'è a secondo le necessità, esatto, di che tipo di interventi sono, se l'ambulanza, l'altra ambulanza è già fuori. Quindi ovviamente è importantissima questa cosa. E questo per quanto riguarda il servizio, diciamo, di emergenza. Ovviamente poi ci sono anche tutta un'altra serie di trasporti che io facciamo. Direi di fermarci un attimo qua, andiamo al prossimo brano. Come sentite, troppo, l'argomento è molto serio, ma ora riusciremo è vasto, si vede che Marcello è nel ramo, ma riusciremo anche un pochino a prenderlo, non assolutamente con il massimo rispetto, ma anche con un po' di leggerezza. Intanto complimenti per quello che buon state facendo dalle F Frequenze e proseguiamo. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. Questa è difficile, la dici te, Marzi. Ma veramente, questo è il disco errore stasera, The Handsome Family con Far From Any Road, lontani da ogni strada. Sto dicendo a caso, non lo so. Guarda, leggi un po', leggi un po'. Sì, sì, confermo. Bene, ok. Questa è una band alternativa, anzi, come scrive Simone, che salutiamo. Ciao Simone. Ciao a tutti. Evviva, che alla parte tecnica è una band alternative country americana formatasi a Chicago, ma attualmente ad ho letto Alberic. Dov'è? In New Mexico. Vabbè, non ci perdiamo dietro queste cose. Proseguiamo. Avevamo iniziato un interessantissimo discorso. Mi sembri un po' discorso. Perso nel deserto del New Mexico stasera. Ora bevo, parla te. Allora, rientriamo con Lamberto Moretti, presidente della Pubblica Assistenza, e volevo sottolineare una cosa che secondo me è fondamentale. Fin dagli inizi questi servizi di trasporto sanitario, come anche oggi, si sono basati per lo più sull'opera e sul l'offerta di tante persone in maniera volontaria. Questo fa il filo, Enzo, con tantissime iniziative e associazioni che abbiamo anche ospitato qui da noi, certo, che dimostra come a Foiano l'associazionismo e il volontariato sia così vivo e attivo e radicato, così anche importante. Esatto, ma credo che in questo caso sia ancora più importante. Se certo, ci voglio spiegare un po', Lamberto, come funzionate, funziona l'assistenza AVIS. Cioè, questa anzi è una cosa importante, perché tanta gente non sa, vede l'ambulanza passare, vede le macchine della pubblica assistenza, però effettivamente il cosa c'è dietro non tutti lo sanno, ovviamente, chi non vive un po' l'associazione. Certo. Diciamo questo, allora, ovviamente la nostra è un'associazione di volontariato, è nata come associazione di volontariato pura, diciamo così, nel senso che era gestita solo con i volontari. Poi ovviamente, proprio con la nascita del 118, con l'emergenza 24 ore al giorno eccetera, sono aumentati i problemi, dobbiamo avere delle certezze, ovviamente, perché il volontario è la persona che giustamente dedica il suo tempo liberamente e quindi non sempre è disponibile, quindi diventa anche difficile aumentare il numero di servizi, fare servizi sempre più importanti solo con i volontari. Quindi, come tante altre associazioni, siamo stati costretti, tra virgolette, diciamo, per migliorare e adeguare i nostri servizi, ad assumere anche dei dipendenti. Oggi abbiamo 6 dipendenti, tra amministrativi, okay, autisti, personale parainfermieristico che sale in ambulanza. E questo ci dà delle certezze, ovviamente, ma non sono queste persone in grado di fare tutti i servizi, assolutamente. Certo. Quindi abbiamo tutta una schiera, per fortuna, numerosa, di volontari, una folta schiera, un centinaio di persone, un centinaio di persone che a vario titolo, con tempi ovviamente variabili, perché c'è chi riesce a fare una notte al mese, chi riesce a fare diversi giorni, ci sono dei pensionati, comunque sono tutte persone che io ovviamente ringrazio a nome dell'associazione, perché ci danno la possibilità di gestire tutto il lavoro, tutti i servizi che abbiamo, anche perché ovviamente noi riceviamo dei rimborsi da parte della USL per i viaggi che facciamo, anche perché abbiamo i mezzi da comprare, certo, abbiamo certo, tutto il nostro sistema da gestire, ma con i rimborsi che ci sono attualmente non saremmo in grado di gestire con i dipendenti, assolutamente. Quindi quello che tiene in piedi dal punto di vista economico la pubblica assistenza sono veramente i volontari. Ecco, sottolineo anche un'altra cosa, Enzo, che oltre ad essere un'associazione di volontariato è anche una ollus, quindi non ha uno scopo, certo, di lucro. Assolutamente, quelli che bravissimo, sono i rimborsi che vengono dall'ente pubblico, dalla USL, sono praticamente tarati sulla copertura del servizio, quello veramente di emergenza, che è basilare e che deve essere comunque coperto da persone disponibili e qualificate. Il resto, chiaramente, l'associazione fa rivolge appello alla cittadinanza. Bravo. E all'opera dei volontari. Dico un'altra cosa, ma di tutto quello che vuoi, e poi dopo magari la approfondiamo, ma che sì, non è il volontario un volontario a tempo perso e senza esperienza, ma no, sono tutti volontari personale qualificato, perché hanno fatto dei corsi di formazione, di cui magari poi possiamo anche parlare. Ma una prima domanda che mi viene così da profano, proprio come diceva Lamberto, di quello che vede passare il mezzo della pubblica assistenza ma non ne sa niente di più. Ad esempio, di quanti mezzi disponete? Perché allora, noi abbiamo se ne vedono tanti, parco macchine che Adesso è strutturato così: noi abbiamo 6 ambulanze. Ecco, 6. Abbiamo un pulmino per che il non trasporto. C'è un appello a sentirsi male. No. Anzi, facciamole rimanere lì il più possibile ferme, altro che. Abbiamo un pulmino per il trasporto dei disabili, abbiamo 2 toblò sempre attrezzati per il trasporto disabili con carrozzine, diciamo, e con agganci, con le pedane, elettriche, esatto, eccetera. Okay. E poi abbiamo 5 macchine per i servizi, praticamente. Quindi è un furgone anche per, da carico, diciamo, che ci serve per portare anche dei, per esempio, i letti, cioè facciamo dei servizi per le persone che ce lo chiedono, per portare per esempio il letto per la persona che ha problemi a casa, sì, infatti, che non ha una persona anziana e quant'altro, insomma, quello che per esperienza personale, cioè forse qualcuno se pensa alla pubblica assistenza viene solo appunto da pensare all'emergenza, all'ambulanza che interviene, quando invece c'è tutto, è una parte, è solo una parte importantissima, ovviamente. No, chiaro, è la parte più visibile e fondamentale di questo tipo di servizio, indubbiamente, perché lì vuol dire che c'è molte volte c'è una persona a rischio della vita in quel momento, quindi è evidente, è che l'emergenza che risalta, è la cosa che risalta. Però noi facciamo tantissimi trasporti, perché appunto queste ambulanze le usiamo, gli altri mezzi li usiamo tutti i giorni o quasi tutti i giorni, certo, insomma, a seconda di quanti viaggi abbiamo, per fare trasporti cosiddetti ordinari, che sono dei trasporti che ci richiedono i medici per persone barellati o con problemi, difficoltà motorie. Ma ti dico che ho esperienze personali in casa, proprio che di persone che avevano difficoltà in un determinato momento a andare, esatto, anche solo a fare una visita in un ospedale, certo, e dove siete intervenuti, dove sì, è intervenuta, sì, è normale, insomma, questo è un servizio normale che facciamo, e ecco, e lo facciamo sia diciamo se ci sono le condizioni per cui il medico diciamo può dare questo viaggio gratuitamente al, okay, paziente e viene rimborsato dalla USL, sia ci sono delle persone che ce lo chiedono anche, certo, a livello personale, diciamo, e ci sono delle tariffe anche ridotte in base se uno è socio, se uno, insomma, le, perfetto, condizioni economiche. Ok, quindi direi, come possiamo ben capire, come stiamo ascoltando, è molto radicata la pubblica assistenza nel paese, come è giusto che sia, e poi dopo daremo anche dei numeri, abbiamo già pubblicato qualcosa sulla nostra pagina Facebook per poter contattare, anche per poter diventare dei siamo sempre alla ricerca di... uno dei motivi per cui è radicata, perché è nata da dei bisogni del paese, è vero. A cui la cittadinanza e i volontari, i foianesi, hanno dato una risposta, e questo è il volontariato. Beh, io, Simone, metti un disco, perché a questo cosa punto possa andare dico, via. Anche io posso sciupare questa frase. Free. e che la strada libera la possano sempre trovare i mezzi di soccorso, perché questa era Hemi Man e la, il titolo è Freeway. Quindi una, io avrei messo libera. Freeway of Love, cantato da Aretha Franklin. Ma... beh, lui si ferma al 78-79. No, io te l'ho detto, il più grande fulgore di Giacomo Rondinella è quello del mio. Che ancora salutiamo dalla sulle cieli. Ma torniamo a bomba, all'argomento. Stavo facendo una riflessione, siamo con Lamberto Moretti, presidente della pubblica assistenza Avis di Foiano, e con Marcello, il solito, quello di tutti, però, i giorni di sera, che però fa che parte, però c'entra qualcosa mio qua. Malgrado no sì vabbè, e stavamo appunto parlando, parliamo delle degli persone, innumerevoli servizi e delle tante persone che lavorano all'interno, che ruotano intorno alla che ruotano, scusate, sì, per la maggior parte volontari, ma che non sono volontari qualsiasi, sono volontari che hanno anche una certa preparazione. Bravo. A tal proposito, abbiamo appena pubblicato sulla pagina Facebook qualcosa che riguarda il servizio civile. Ecco. Partiamo da lì e raccontaci un po', Lamberto. Allora, il servizio civile è una cosa che è dello Stato, certo, perché è il ministero che diciamo organizza, gestisce e finanzia. Il ministero perché... dell'educazione, quello per essere civile. E bravo, praticamente... ogni tanto abbassa il livello, ecco, Max, bravo. È bravissimo, abbassa il livello. Mezzo tonobo. Allora, appunto, il servizio civile è una cosa molto importante perché dà delle risorse giovani anche alle associazioni, non solo a noi, ma a tutte le associazioni che fanno una richiesta. Deve essere presentato un progetto, okay, annuale, cioè ogni volta perlomeno che c'è un bando, insomma, diciamo, di solito il bando è annuale, e questo progetto, se viene accettato, a noi per esempio permette di avere 6 ragazzi, uh-huh, dai 18 ai 28 anni possono fare richiesta di questa cosa, e staranno con noi un anno praticamente, fanno questa cosa, salvo che non ci siano problemi, trovano lavoro, allora, okay, naturalmente non è che è un obbligo assoluto, e comunque in questo anno loro hanno solo, noi abbiamo l'obbligo di formarli, e quindi magari parliamo poi di formazione, che è una, certo, cosa, certo, che non è solo per i ragazzi del servizio civile, però per loro è importante perché in questo bagaglio di esperienze che si fanno durante l'anno, una delle cose principali è proprio la formazione. Formazione per diventare dei soccorritori di livello avanzato. Praticamente, diciamo, loro partecipano a dei corsi, come anche gli altri volontari che devono raggiungere questo livello avanzato. I corsi, se non mi sbaglio, sono aperti a tutti? I corsi sono assolutamente aperti a tutti, noi li facciamo almeno annualmente qui a Foiano? Qui, sì, alla nostra sede, alla vostra sede, lì accanto all'ospedale, insomma, i foianesi penso più, sì, o meno la conoscano tutti. Arrivate in fondo al viale, trovate l'ospedale, esatto, scendendo un po' a sinistra, esattamente, trovate la sede verso il PEP. Bravo. Si trova, gli amici della Svizzera capiranno benissimo. Hanno capito subito, certo. E lì facciamo anche questi corsi per i nostri volontari e i nostri ragazzi del servizio civile. Questo per noi è importante perché senza questi corsi non si può salire in ambulanza, quella di emergenza, ecco, in particolare, perché per poter salire in ambulanza non vuol dire che non si può salire e sedersi, operare, diciamo, operare in ambulanza, andare, almeno, a fare l'emergenza. Scusa Lamberto, non si può salire davanti perché, no, dietro nel lettino, ah, puoi, sì, salire, anche, sì, sì, dandoti, sì, una martellata, ci già, puoi, già hai diritto, hai diritto subito al viaggio gratis, per esempio. Certo, questo ognuno poi è libero, insomma, si diverte come vuole. Noi cerchiamo di sdrammatizzare, no, certo, giustamente, certo. Allora, perché comunque nell'immaginario collettivo magari l'interno di un'ambulanza di primo soccorso vediamo, dice, com'è, non lo posso, non lo vedere, sai, mi, allora, do una martellata su un ginocchio e vai. Beh, è uno proprio curioso, certo, questo è assolutamente curiosissimo. E ecco, perché l'equipaggio di un'ambulanza di emergenza è fatto da un autista che può avere anche il livello base, non il livello avanzato, diciamo, cioè quello che permette di essere soccorritori di livello avanzato, 2 soccorritori di livello avanzato e magari il medico. Però non è detto che il medico ci sia sempre in ambulanza. Questo perché è la USL che lo stabilisce. Per esempio, in Val di Chiana noi abbiamo 2 medici per 3 ambulanze. Quindi noi facciamo servizio tutti 24 ore su 24, quindi un giorno siamo senza medico, 2 giorni con il medico a turno fra noi, Cortona, Castiglio Fiorentino. Okay. E questa è una cosa che ha stabilito la USL, quindi non è che noi... certo, possiamo... voi vi attenete solo a questa, cioè, regola. Ecco, poi noi riceviamo, come dire, un rimborso spese per l'ambulanza che mettiamo a disposizione per il personale, tranne per il medico che è un dipendente della USL. Ok, ecco, diciamo. Okay. E che ovviamente è importante perché è quello che svolge... Beh. Cioè, noi siamo, come dire, quelli che portiamo il medico, medico, gli diamo una mano, cerchiamo le di attrezzature fare... e abbiamo le attrezzature che servono, a cominciare dal defibrillatore, monitor, aspiratori e quant'altro, diciamo ossigeno e tutto quello che può servire in un intervento di emergenza. E abbiamo i ferri, cioè il medico ha a disposizione anche i ferri per fare l'intubazione, cioè ci sono tante cose che un vero e proprio primo intervento, un primo intervento che veramente serve a stabilizzare, perché noi l'obbligo nostro quando insomma del medico di stabilizzare il paziente e arrivare anche con relativa tranquillità al primo pronto soccorso. Ok. Questo è lo scopo principale. Poi qualche volta c'è da correre, molto spesso per fortuna si arriva con una situazione molto di emergenza, per fortuna poi il medico riesce a intervenire subito e, come dire, il codice calma, magari se volete calma. Codice rosso, codice giallo, codice verde. Certo, questo bene o male lo forse conosciamo tutti. Ormai chi è diventato chi frequenta anche i pronto soccorso è costretto a impararlo, perché esatto. Il codice rosso, vabbè, meglio non provarlo, ma ha l'accesso immediato. Codice giallo già un po' meno, il verde si aspetta, no? Un po' un po' di tempo, ma meglio il verde. Meglio il verde. Il codice bianco è quello che normalmente la sera tocca a noi dopo, si va in bianco. E con questa, visto che se no dopo arriviamo sempre avevi troppo chiesto te bravo riabbassa la situazione. Vai, Simone, va. Abbiamo ancora delle chicche. Oh, Kate Bush. Con chi? Kate Bush. Ma questa era facile. Ora il titolo che è un casino. Withering Heights. Ma ci siamo quasi. Del 78, uno dei maggiori successi della cantante inglese. E il primo singolo contenuto nell'album di debutto del 78, The Kick Inside. The Kick Inside potrebbe, attenzione, allora, potrebbe voler dire tante cose. Ricordiamo che siamo ancora con Lamberto Moretti, presidente della pubblica assistenza Avis. Questa è Piazza Alta, potete seguirci da domani. Anzi, se lo state già facendo domani, vuol dire che lo state già seguendo sul nostro podcast, che trovate sulla nostra pagina Facebook. E poi c'è il canale YouTube. Stasera ringraziamo la splendida Alice che sta facendo le riprese. Alla quale se che potremmo, ricordo, anche pensare di intervenire prossimamente. Tutti i pomeriggi dalle 17 alle 19 fa l'informazione su Radio F, quindi potete sentirla. Giusto, ho detto bene? No, perché sai, io naturalmente le notizie che legge lei sono scritte da noi, quindi sì, quelle che... è probabile. E dobbiamo anche ricordare altre due cose, un po' gli appuntamenti che abbiamo sulla pagina di Piazza Alta, sì, di Facebook, perché il nostro Simone Solerte Simone si dà da fare tantissimo alacre lavoro. E come? Il lunedì sera con una serata da leone, in cui propone un paio di film molto belli e interessanti sempre. Certo. Io li guardo tutti, ovviamente, la notte fra il lunedì e il martedì non dormo per seguire, per vedere subito i film. L'ultima saga di Pozzetto mi è proprio e il allora seguiamo, ma perché, certo, seguiamo? Ma guarda Simone pensa che ma voglio dire. Buon ascolto. Dalle F frequenza. Dal 1976. Ogni tanto va imboccato. E poi il sabato invece abbiamo il aspetta che te lo dico, perché un no, le proposte per il weekend. I consigli per il weekend. Buon ascolto. Dalle F frequenza un'altra volta. E poi ci sono degli ascoltatori che mi mandano dei messaggi anche in privato. Che salutiamo, tra cui Matteo e tanti altri che dopo salutiamo. Che ci chiedono. Anche Eddie era fremente. È da metà pomeriggio che ci bombarda di messaggi, esatto, per sapere, esatto, di cosa avremmo parlato. Ed eccoci qua che ora lo sa. Ecco, sono passate le 22:45, possiamo affrontare anche argomenti più hot, un po' più scollacciati dal punto di vista degli interventi. Lamberto, perché comunque chiaramente chi ha a che fare con le persone si trova spessissimo, come lo scibile umano, i soccorritori, anche in situazioni un po' particolari. Quindi succedono. Diciamo, dopo aver un po' dato l'inquadramento dell'associazione e a grandi linee quello che fa, Lamberto, ci sono stati, cioè il popolo vuole sapere, diciamo, episodi un pochino più piccanti. Ora noi siamo tenuti all'anonimato assoluto, ma te non ci devi dire né in zona, certo, ma così, diciamo, cose che si ricordano. Diciamo che anche episodi che ho vissuto anch'io in ambulanza, e non solo, cioè un episodio per esempio che è successo, un parto in ambulanza, io non c'ero quello. Hai partorito però, in ambulanza? No, io non c'ero, mancavo. Però, ma un parto proprio avvenuto, ecco, sì. Come viene registrato? Nato a? Credo Castiglio Fiorentino, perché era strada statale 300. Aspetta, è come le navi, cioè se tu sei dentro una nave italiana vige la nazionalità italiana, non lo so. Quindi se ti viene a prendere l'ambulanza di Foiano nasci nel comune di Foiano, no credo, dipende dove sei. Comunque lì è stata una cosa abbastanza, cioè la per là ovviamente dopo bella la per là, certo, insomma si erano anche molto preoccupati, però una signora che praticamente sono andata a prenderla perché era una cosa veloce, è stata troppo veloce, ma se l'ha approfittata, però troppo veloce, diciamo. E questo chiaramente lei è stata assistita dai soccorritori, sì dai, certo, c'era il medico e i due soccorritori dietro, hanno fatto, te pensa a questo figliolo o figliola che è nato, che è nata di corsa con le sirene nelle orecchie, ma che sì, vita, ma dove sono capitato, che vita spedita che già però per esempio però poi stavano tutti bene, quindi è stato il lieto fine. Allora, voglio precisare e sottolineare che parliamo di determinate cose perché sono tutte cose che sono andate assolutamente bene, ci mancherebbe altro, come per esempio so di alcuni interventi fatti in locali che diciamo di giorno, a luci rosse, che di giorno sono chiusi, ecco, diciamo così, ecco, lì fate a gara per quando chiamo da certi locali per entrare in ambulanza e partire. No, anche perché di notte a quelle ore lì non è che c'è la gara, perché ci sono solo i tre disgraziati tra virgolette, certo, che devono, certo, fare la notte, no, le tre persone che fanno la notte, magari il medico e vabbè, è capitato spesso di andare anche nei night club o in locali particolari o in situazioni particolari. Ovviamente, ecco, io quello che dico sempre anche ai nostri volontari, noi capitiamo sempre in tante situazioni strane nelle case delle persone, in ore impensate si trovano le cose più strane, insomma, dalle abitazioni, dagli attimi, certo, dalle persone che hanno fatto, che si sono prese a botte, dalle persone che sono accoltellate, dalle persone, certo, cioè da quello che ha la tosse chiama solo perché ha la tosse, da, cioè ci sono mille casi diversi e mille cose, ognuna ha una storia, che ovviamente, ecco, fare questo tipo di attività in un certo senso vuol dire entrare veramente nell'intimità delle persone, perché si certo, va questo è una cosa che bisogna mettere nel conto, non spaventarsi di fronte a niente e affrontare questo, le cose. Poi appunto ci si trova in situazioni anche simpatiche da ridere, che poi alla fine magari le persone vengono anche qualche volta lasciate a casa e non portate in ospedale perché proprio sono, perché non c'è un'emergenza situazioni di, poi ci sono le situazioni gravi, ci sono le situazioni, ecco, quindi è veramente, si vede un po' il mondo come gira, questo indubbiamente si ritorna tante volte dalle stesse persone per vari motivi, perché chi ha patologie particolari che quindi viene seguito purtroppo e ha problemi e quindi spesso ha bisogno o di calmanti o di altre cose anche alle ore più impensate o di ricoveri in ospedale urgente, e ci sono appunto quelle cose che poi ci si raccontano per fare due risate tra virgolette, perché sono simpatiche veramente, ecco, e senza però senza... Questo qui è anche il fascino di fare il volontario, di fare il soccorritore, perché chiaramente messo nella condizione di avere la preparazione giusta ti trovi a dover magari affrontare delle situazioni di vario genere, sia a livello psicologico che proprio fisico, chiaro. Intervento che ti portano a conoscere, sì, anche fisico, anche fisico, perché qualche volta succede di dover spostare una persona da un quintale e mezzo dal quarto piano fino giù. Infatti il corso, questo base, per esempio, prevede anche 2-3 ore di palestra tutti i giorni. Allora, il sollevamento pesi succede qualche volta. A volte bisogna chiamare anche i vigili del fuoco, perché per portare fuori delle persone che sono, diciamo, leggermente fuori peso, ma parecchio fuori peso, insomma, c'è bisogno dei vigili del fuoco. È incredibile. Come sentite, c'è veramente di tutto e di più. Ecco, può essere anche un invito a... ma adesso lo facciamo, a partecipare, diciamo, ad introdursi in questo grande assolutamente mondo. E infatti quella, la domanda la volevo fare dopo, ma se vuoi la facciamo adesso. Ma, sì, come vuoi tu, cioè, se questa cosa ti ma deve facciamola dopo, altre allora tre sedute dall'analista. No, perché già spendo dopo troppo così. Andiamo con un altro brano, dai. Ascolto. Keep on learning. Soldier. caro Stevie Wonder, lo Stefano Meraviglioso, eh? Ecco, che musica stasera, ground, ragazzi. Bravo. Proprio con la scelta random, quando Simone fa la random, la scelta, guarda che stasera sono tutte belle. Sì, viene una, infatti ho detto l'ha fatta a caso e viene una playlist piuttosto gradevole. Allora, come, ma io, vabbè, ok, niente, vedo da alcune foto che adesso andiamo a pubblicare, appunto, come dicevate, che il tempo nel passa. A parte il tempo passa, sì, era il 1994 quando è iniziata questa avventura, l'anno scorso avete festeggiato i 20 anni. I 20 anni, esatto. E ora pubblicherò una bella foto della torta, che mi sembra giusto. Sembra, sì, eh? Che allieta un po' la serata di era tutti. Torta col logo dell'associazione. Esatto, infatti, guarda, ora adesso la pubblico. Intanto, se ci vuoi ricordare, Lamberto... che come può contattarvi chi ha intenzione, avesse intenzione, allora, di partecipare a questa avventura, a questa, allora, grande famiglia. Tutti, esatto, possono contattarci ovviamente telefonicamente, intanto perché i nostri numeri sono sempre, durante il giorno c'è sempre qualcuno che prende le chiamate, a parte quelle del 118 anche la notte, certo, ovviamente, certo. E comunque 0575 648833 o 649339, questi sono i numeri storici che Marcello si ricorderà, perché 8833 l'hai fondato praticamente su Marcello. Ma il 649339 ci è voluto di raccomandarsi, perché siamo andati direttamente proprio ad Arezzo alla Telecom per farsi dare un numero che fosse facilmente ricordabile, perché il primo, quando ancora non c'era il 118, era il numero che veniva chiamato, è vero, per l'ambulanza, sì, per l'emergenza. Quindi sì, c'era qui a Foiano la gente chiamava quel numero per... poi infatti hanno continuato per un po' che chiamavano direttamente il numero. Anche quando esisteva il 118, era nato già il 118, alcune persone continuavano a fare quel numero per abitudine, certo. E non è stato facile, perché qualcuno dice: ma ho bisogno dell'ambulanza. No, guardi, deve fare il 118. Mi ma ricordo, perché... infatti c'era proprio delle difficoltà, perché voi non potevate più intervenire se non ricontattati dal 118, giusto? No, ma questo assolutamente. Però adesso non, sì, c'è più nessun problema da anni ormai. Sì, sì, sì, sì. Perché ovviamente tutti sanno che si chiama il 118 e è giustamente. Ma poi è anche no, molto no, più semplice. Ma ora risponde una sala questo... corsa. 9339. Mentre invece altri modi per potervi contattare, avete una pagina Facebook? C'è una pagina Facebook, stiamo preparando il sito, che spero subito dopo Pasqua sia pubblicato, e lì terremo anche aggiornato un po' tutti sulle nostre attività, su quello che facciamo e le iniziative prossime. E le prossime iniziative, ovviamente noi, ecco, cerchiamo anche di essere presenti in tutte le iniziative anche del paese. Vabbè, a parte siete carnevale, molto presenti, perché sì, sì, cerchiamo, anzi, almeno se ci vuoi dire un po', perché sì, per esempio il carnevale che è appena passato, a parte le nostre ambulanze, due ambulanze che sono sempre presenti, certo, ai corsi del carnevale, il martedì quando ce n'è bisogno assolutamente siamo disponibili, e poi tutte le varie fiere, mercatini e cose del genere cerchiamo sempre di essere presenti, diamo l'ambulanza anche per le partite di calcio, tutte queste cose ovviamente le facciamo gratuitamente. Vorrei sottolineare che ci sono tantissime manifestazioni che senza la presenza dell'ambulanza certo, non possono svolgersi, quindi... a cominciare dalle partite di calcio, tutte le gare sportive, anzi molte adesso ci vuole anche il medico, tipo corse ciclistiche, ancora alcune no, ma non lo so se poi prima o poi ci vorrà anche il medico, certo, ma giustamente, e lì vabbè, diventa un problema anche un po' economico. Ecco, una cosa che mi premeva dire, che non avevo pensato, noi a Foiano abbiamo anche diversi defibrillatori automatici, sì, che abbiamo installato in provincia di Arezzo. C'è un progetto, si chiama Progetto Cuore, che è stato organizzato, diciamo, dalla USL in collaborazione con delle associazioni. E questa è una cosa molto importante, noi abbiamo partecipato, e a Foiano non a caso siamo uno dei comuni in cui la percentuale di cioè in base alle popolazioni, noi abbiamo 10 defibrillatori installati nel territorio di Foiano, e rispetto al numero di abitanti al territorio siamo uno dei più dotati in provincia d'Arezzo e forse anche oltre. E questo perché c'è stata molta sensibilità su questa cosa, anche privati hanno partecipato assolutamente, abbiamo formato parecchie persone, e ora tra poco ne dovremo mettere un altro sotto il loggiato di Corso Vittorio Emanuele, che abbiamo noi in sede, che ci è stato, diciamo, regalato tra virgolette dalla nostra assicurazione, cioè dall'assicurazione che dove abbiamo, insomma, dalla filiale dove abbiamo assicurato i nostri mezzi. E anche lì rifaremo un corso per i negozianti, per le persone che gravitano più o meno nella zona centrale del paese. Questi defibrillatori sono importanti perché sono, diciamo, nella disponibilità della cittadinanza. Assolutamente. Quindi saperli adoperare, ecco, pone ognuno, esatto, di noi nella condizione di poter all'occorrenza dare una mano. E questo è importante, quindi avere più persone formate possibile, perché altrimenti non... Cioè è inutile avere un mezzo, uno strumento, non sappiamo, esatto, usarlo. Avere uno strumento e non saperlo suonare è inutile. In questo caso però dopo suona qualcosa. Ok, allora siamo arrivati veramente alla fine. Come ogni giovedì, caro mio Marzi, qui le cose volano, tiranno, veramente. Tra l'altro, senza tema di smentita, mi sento di dire che questa è stata sicuramente la trasmissione più costruttiva che in due anni abbiamo fatto. Bah, assolutamente. Un argomento, diciamo, fondamentale per la nostra esistenza. Trasmissione non è solo bello che ci sia, è anche la pubblica assistenza, è anche importante, nei limiti della possibilità, del tempo e della voglia di ognuno, magari chiamare a raccolta alla partecipazione. Assolutamente. Noi questo speriamo. Questa trasmissione spero sia servita anche a questo. Quindi, a seguite Piazza Alta, ma seguite anche le iniziative, quello che fa la pubblica assistenza. Lamberto, grazie per essere grazie stato a voi con veramente noi. Di questa opportunità, e mi ha fatto piacere poter, diciamo, presentare qui, raccontare un po' come funziona l'associazione. Ora, appena facciamo la versione per la Rai o per Media, se ti richiamiamo. Bene, io aspetto quel giorno con ansia. Aspetto quel giorno con ansia. Per voi, senza, soprattutto. Senza, grazie, troppo buono. Questa era Piazza Alta, questo era Marzi che dice qualcosa di intelligente. Ogni tanto, non sempre. Benissimo. Questo era Enzo che mai le dice invece. Un saluto anche a Simone. Quello che avete sentito è appunto era il duro lavoro di Simone. Vi ricordo che ogni giorno dalle 17 alle 19 c'è uno splendido notiziario su Radio F tenuto da Alice, che ci saluta. Ciao Alice. Ciao, l'appuntamento è giovedì prossimo. Senza meno. Torneremo a parlare di sport, questo già ve lo posso dire, con un fatto storico per quanto riguarda Foiano. Non sto più nella pelle. Quindi tu, Marcello, non sai di che cosa infatti parleremo. Come sempre. Poteva essere anche musica, poteva sì, letteratura, dire, fare, baciare, lettera, testamento. A giovedì prossimo con Piazza Alta. Buon ascolto dalle F frequenze. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marzi, alla conduzione tecnica Simone. One. Alle riprese video Alice. Ice. A giovedì prossimo. Ossimo.